cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Non lo so, io in realtà sono completamente impreparato, anche se... Io sto cercando Marco Roma. Stai cercando Marco Roma, ok, tu stai cercando Marco Roma, io invece stavo cercando di postare su Facebook la nostra fotografia, ma naturalmente è cambiato il wifi della radio, no, anzi è cambiato il nome, per cui non ci sto riuscendo assolutamente. E se qualcuno vuole mandarci un messaggino nel frattempo può scrivere al 333 180 94 94, naturalmente. Una cosa posso dire, in realtà, che l'avevamo già detto un paio di settimane fa, ma alla fine mi è arrivato il disco, il vinile di Jenny Owen Youngs, che avevo preordinato, ed è viola, è bellissimo, e del nuovo disco che si chiama Avalanche, e ho scelto un'altra canzone oggi da farvi sentire, che però, non essendo io in regia, non mi ricordo come si intitola. Si chiama It's Later Than You Think. Ah, ecco, che fra l'altro è una canzone super interessante, perché io l'avevo già sentita lei che suonava questa canzone, perché ogni tanto lei fa dei live su Discord, e sembrava una canzone super allegrotta, cioè anzi, sembrava quasi una, come si può dire, positiva, felice, motivante. Sì, esatto, ma anche... una potenziale hit, no? Certo. Una canzone che potenzialmente, mentre invece la versione sul disco devo dire che mi ha un po' deluso, per cui adesso ve la faccio sentire, ma secondo me se qualcuno fa una cover di questo pezzo qua, magari qualcuno più famoso di Jenny Owen Youngs, può darsi che salti fuori un successone. Tanto Jenny Owen Youngs non ci ascolta in italiano, per cui posso dire quello che voglio. Vai. Ed eccola qui. Forse arriva. Hai abbassato. Got a memory to amputate, digging for the Novocaine, looking for some relief. Marco non ci ha scritto. Ahi. Doctor of ontology took some warning out of me, like he was pulling teeth. Bellissimo questo pezzo di Jenny Owen Young. Sì, non è male, vero? Però secondo me poteva caricarlo un po' di più, farlo un po' più punk, cioè un po' più potente, sì. Però... Lievemente forse primaverile? Oppure, no, anzi scusami, volevo dire lievemente autunnale, cioè in questo mondo un po' che fa un fade. Sì, no, in effetti Avalanche, che è la canzone... la canzone, come si dice, la canzone che dà nome al disco è molto autunnale. E infatti ve l'ho fatto ascoltare in luglio perché era il primo singolo che era uscito, però magari la possiamo riascoltare un'altra volta. E dunque, com'è andata questa settimana? Io sono andato a sentire la presentazione di Condiluia, il magazine in cui in questo numero è tutto fatto da Jacopo Benassi, che l'ha presentato con questa performance in cui suonava questa, cioè c'aveva una tromba strana che non ho capito se suonava da sola oppure lui doveva soffiare, e ogni tanto sparava dei flash. Dove vi trovavate? Eravamo a Xinga, alla Raum, in via Caselvatica, come avevo annunciato la volta scorsa. E no, è stato molto interessante. Sì, cos'era? Giovedì scorso. Tu dove eri? Giovedì scorso? Giovedì scorso ero a Milano. Ah. E non ho visto niente di... Ah no! Ho visto qualcosa, però devo ritrovarmi bene. Il Arto Lindsay, ho visto all'Armani Silos, il concertino di Arto Lindsay. Okay. Esattamente giovedì sera scorso. Wow! Sì, molto bello. Carino. Molto, molto carino, molto carino, molto carino. Non ero mai stata. E, insomma, è stata una performance musicale interessante. Numero chiuso, quindi comunque non c'era la calca di gente, e è stato una bella esperienza di suono, anche forse un po' meno, non si sa, però la musica di sottofondo è già lì che salta. Ah no, adesso è ripartito, perché dovete sapere che la nostra musica di sottofondo viene fatta con un CD e il CD salta. Vabbè, ma una volta dobbiamo portare qua i dischi. Esatto, no, dovrei trovare un vinile. Sì. E il problema del vinile è che dura solo 33, cioè tipo mezz'ora, per cui a un certo punto bisogna rigirarlo. Dovrei trovare un vinile che sia solo non cantato, che sia solo musica di sottofondo. Solo musica di sottofondo. Un bel tappetone musicale per Cox Spaziale. Perché in realtà anche su YouTube ci sono dei sottofondi di musica di sottofondo. Ti potrei dare il mio iPad, però dopo poi avrò problemi a leggere le menzioni. Ti fa ridere questa cosa. Allora, e poi cos'è successo anche questa settimana? Sono stato a vedere la mostra di Snitch ad Adiacenze, molto interessante quella mostra. Però se mi chiedi il nome dell'artista non me lo ricordo più. L'abbiamo menzionato. Quindi possono, per cui a posto. Quindi possono andare a vederlo, a leggerlo su www.coxspaziale.blogspot.com. E potete anche mandarci un messaggino al 333 180 94 94, un vocale. Mm-hmm. Possiamo ricordare che il nostro Marco Roma non ci sta più mandando i vocali. Marco Roma, dove sei finito? Cavoli. Esatto, quindi sentiamo assolutamente la tua mancanza. E anche di musica di sottofondo che non stia saltando. Continua a saltare, sì. Sì. Ok. Riproviamo così. Ritenta, saremo più fortunati. E poi... Invece ci stiamo buttando anche noi dentro questa atmosfera autunnale. Ormai in studio a Radio Città Fujiko il fuori dalla finestra è buio, freddo. Eh sì, abbastanza. Siamo soli io e te. Faremo una puntata, esatto. Una puntata nostalgica. Ma avremo ospiti d'eccezione la settimana prossima, giusto? Esattamente. Che è il 23, perché poi, infatti questo è il motivo per cui sei in regia, ti lascerò da solo il 30. Chi avremo il 30, fra l'altro? Abbiamo già ospiti in programma, io non mi ricordo. Il 30 di novembre abbiamo... il 30 di novembre, il 30 di ottobre. Hai ragione, il 30 di ottobre. Il 30 di ottobre. Aspetta che vado sul drive e scrivo Cox Spaziale. Io non ho capito. Io però caccio un'altra canzone, perché tra me in regia e te che conti le cose sul drive. Faccio sentire. Cosa ne pensi se faccio sentire? Ah sì, no, infatti, no, hai ragionissima. Sono io che mi dimentico della scaletta, perché non essendo in regia abbiamo un pezzo da farvi sentire, perché il 20 ottobre esce per l'etichetta Pioggia Rossa Dischi un disco che si intitola Avrai sempre un posto nel mio hard disk, che è il nuovo lavoro di Tutte le cose inutili. Cioè, tra il titolo del disco, che è appunto Avrai sempre un posto nel mio hard disk, e il titolo della band, il nome della band, che è Tutte le cose inutili, diventa veramente anche un po' problematico. E leggere questo comunicato stampa a 5 anni di distanza dall'ultima fatica discografica, registrato in prima impresa diretta al Green Fog Studio di Genova da Mattia Cominotto, già al lavoro con Meganoidi, Tre Ragazzi Morti, Pancreas, Odd Fulmine e molti altri. I 12 anni di concerti legano una chitarra, una batteria e le voci di Lao e Meo in un tutt'uno indissolubile. È un inno alla musica suonata nelle sale prove, alle canzoni che escono per esigenza, ai chilometri in autostrada. Se li volete seguire, Tutte le cose inutili, li trovate su Instagram/tutte le cose inutili. E adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo il cui titolo hai tu, perché io da qui non lo vedo, ma se non sbaglio dovrebbe essere molto simile al titolo del disco. Il titolo del disco è Avrai sempre un posto nel mio hard disk, invece il titolo del pezzo è L'enorme responsabilità. Sì, esatto, l'enorme responsabilità di essere dell'essere il mio disco rigido. Wow, vai. Tra le cartelle vuote, i progetti non finiti, un foglio Excel di quando ho provato a catalogarti. Tra la tesi di quinta e i documenti di lavoro, tra i miei file nascosti e i miei filmini porno, tra le cose che scrivo, che non smetto di pensarti. Un Photoshop di quando ho provato segnarti. Tra le conversazioni e i backup del cellulare, l'album delle nostre foto al mare, tra le cartelle piene di canzoni scaricate, ti ho fatto un CD. Tra i miei JPEG salvati e le scannerizzazioni, cose che leggo, che non smetto di studiarti. Una poesia di quando ho provato a perdonarti. Avrai sempre tu avrai sempre un posto nel mio hard disk, mia. Ah, davvero? Certo. Pensavo Coxo Spaziale con su Radio Città Fujiko. Con tutte le foto che ti ho fatto mentre sei in regia. È una grande responsabilità, è una quella grande di essere responsabilità, in regia come... di una puntatona di Coxo Spaziale qui a senza Radio ospiti, Città Fujiko, senza ospiti, senza musica di sottofondo, senza un audio di Marco Roma, l'audio di Marco Roma. Gli ho appena scritto di non abbandonarci, perché infatti hai fatto molto bene. Non possiamo permettercelo. Potremmo leggere i messaggi che hanno spedito alle trasmissioni precedenti. Scherzo. No. No, però potrei mandare un altro messaggio di Marco Roma, che ci ha salutato qualche settimana fa, o mandargli un altro appello di scriverci al 333 180 94 94. Anzi, Marco, non tirartela più così tanto da non scriverci. Esatto. A meno che noi non ti scriviamo, oppure perché... ancora meglio, se ci state ascoltando, mandateci voi un audio al 333 180 94 94, imitando Marco Roma. Quindi boom, dobbiamo... boom. Esatto, poteva essere il tuo, anche perché noi stiamo aspettando dei nuovi jingle per Coxo Spaziale. Eh sì, assolutamente. Anzi, Marco Roma, se ci stai ascoltando, facci anche un bel jingle di Coxo Spaziale. Boom boom. Boom boom. E così, dopodiché invece sta per essere inaugurata, la menzioneremo la settimana prossima, una super mostra di Concetto Pozzati. Infatti io avevo promesso a Maura Pozzati che doveva venire qui a parlare, peccato che appunto vado in Grecia, per cui se vuoi ti mando Maura Pozzati. Non abbiamo controllato cosa succede il 30 ottobre, forse avrebbe un suo senso. Non sono riuscito ad aprire il Drive, perché dovete sapere che io e Mia ci coordiniamo con questo Google Drive, che però non vuole aprirsi, per cui non sappiamo cosa succederà. Però insomma, se volete scriverci a coxospeziale@gmail.com nuovi avvenimenti o eventi nel mondo... Un'altra cosa invece, molto, molto soprattutto, perché io devo ringraziare Lao e Meo, cioè di tutte le cose inutili, che ci hanno mandato direttamente il comunicato stampa dell'uscita del loro disco, nonché appunto questa canzone che avete appena sentito, direttamente all'email coxospaziale@gmail.com. per cui se voi siete musicisti, assolutamente mandateci, quando fate dei bei pezzi nuovi, belli, disagiati, che per il mondo dell'arte contemporanea possono funzionare molto bene, mandateli direttamente a coxospaziale@gmail.com, dove io e Mia le ascolteremo, e poi, a meno che non siano inascoltabili, li mandiamo. Oppure anche proprio anche se sono inascoltabili. Cosa dici? Mando un fuck your click? Manda un fuck your click, perché ti volevo dire che il 30 ottobre per ora non ci sono ospiti sul nostro Drive, mentre invece candidatevi, gentili ascoltatori. Invece ti ho segnato per il 13 novembre, avremo la Simona Pinelli a urlare di nuovo qui con noi. Fantastico, molto bene. E vai, fuck your click, non so cosa sia. Senti almeno le canzoni nostre, mi dai una buona motivazione per non farci suonare. Io mi ammazzo e ci avrai un cristiano sulla coscienza, e quando la polizia verrà a cercare te, perché sarai l'ultima mia chat su WhatsApp, poi voglio vedere che cazzo gli dici, voglio vedere come ti giustifichi. Ma io non l'ho gustato, perché noi facciamo così con gli artisti che ci scrivono indipendenti, mica gli rispondiamo. Voglio vedere che cazzo farai con la cazzo di polizia che starà là a perquisirti casa. Sono pazzo di te. Moleste sullo staff e suona Nameless, tiro stecche in faccia agli altri artisti come ha fatto Tony F. Come posso essere razzista se mi pagano in nero? Facciamo mangiare di nuovo la merda a 13 Pietro. Oh oh, sai che siamo in boss, metto Nerone a fare sport, finisco i soldi se andavo vendo in timo sporco. Se suona Nello Taver vado senza portafoglio, per questa merda qui vengo pagato troppo poco. Mo so cazzi vostra, perché lo radiamo al suolo, sto cazzo di posto, lo sfondo di porco. Sono pazzo di co. Sono bollito del cazzo Penso come Salmo Le Bon. Dopo che suonamo ci fanno un TSO. Siamo il motivo per il quale tuo figlio non torna a casa. Mettevo tutto il radar tecnico e ballo come disgascia. Mi chiama Vincenzo Benito, la sborra va blito, corona anche detto da baby. Quando suona Villa me butto per terra così me calpestano tutte le baby. Sono due settimane che non se lavamo, così quando suona Skrillex non c'ho nessuno tra i piedi, divento il neonato di merda appena vedo Mara Sattei. Posso chiamarti mamma, c'ho già il pannolone pronto, voglio ciucciare Gugu Gaga. Zero persone dentro la lista omaggi, non vorrei vedessero sta figuraccia. A Mischeta gli faccio un saluto, la supero come quando stava molto a Vaira. Riguardo Giulier, forse meglio che faccio pippa che quello davvero me spara. Suoniamo solo in playback, pisce un culo a Greg Willen. Puoi beccarmi dentro al bagno a chiedere il cazzo a Villa Ben. Faccio versi come la serie, già sento Nico The Nameless che si pente di averci chiamato, fateci scendere dal palco. Non so cazzi vostra perché lo radiamo al suolo. Sto cazzo di posto, lo sfondo di un palco. Eccolo. Eccomi, io però non mi sento, ma non fa niente. Ci sono? Sì, sulla fiducia. Certo che ci sono. Ci sei, ti okay. Sento volevo cambiarti la musica di sottofondo. Perché... E siamo ritornati a un'altra puntata di Cox Spaziale 462-463. Andate a informarvi su www.coxospaziale.blogspot.com. Giuro che non siamo ubriachi. Cosa succede? Tutto bene? Aspetta che... No? No, mi dice no disc. No. Il player non ci vuole bene. Cascano le cose. Cosa succede? Però secondo me, siccome non ti era piaciuta, clicca su due volte su quello lì. No, anzi, solo una volta sola. Vai, così. E ascoltiamoci un pezzone di Amore di Amalfitano. Grande, vai. Cuori, ma con la bomba a mano la gioventù viene e va. Falene di Roma, estetiche di ombre dentro una fontana. E tu che facciamo? Forse sì, forse al mare, forse al mare, forse è più bello non capirci un cazzo, un giorno qualunque, capire l'amore, cercarti in fondo al buio e scatenare il sole. E mentre vai spalle. Puntata 463, la battezzo così perché non ce la ricordiamo. Siamo da soli, io e Stefano in studio con Mia in regia, quindi tutte le sbavature le prendo abbasserei io. Abbasserei un attimino la musica di sottofondo. Ok, perfetto. L'avevi messa tu a questo momento. Hai ragione. Sì. Ma ero senza cuffie, infatti. Ah, giustamente. No, dicevo bene. Sei molto bello come ospite. Grazie, anche tu sei molto bella come regista. Marco. Regista si dice? No, come si chiama? Come si chiama quello che sta alla regia di una radio? Regista? Sai che non lo so, sì, direi alla regia. Alla regia. Alla regia. Poi, okay. Poi direi alla regia. Alla beh, regia. Sei molto buono. In ogni caso, sì. Stavamo raccontando off air che abbiamo tantissime menzioni per la settimana che viene. Sì, non tantissime, sono tre tipo. Però tantissimi spunti interessanti di cui parlare. Assolutamente. Vogliamo lanciarle? Lanciamole, vai. Le lancio io. Come così. Sai fare tu? L'angolo della menzione. Cominciamo da giovedì 19 ottobre, che alle 18 nella sala conferenze del Mambo abbiamo la presentazione del volume di Giulio Ciavogliello che si intitola Fuori dal coro, l'arte libera dalle ideologie al tempo della contestazione. Cristian Marinotti Edizioni, Milano 2023. L'incontro con l'autore in dialogo con Guido Molinari, che salutiamo e forse abbiamo avuto anche a Coxo Spaziale, adesso non mi ricordo più, critico d'arte e curatore e con l'introduzione di Lorenzo Balbi, direttore del Mambo. Questo è giovedì alle 18 con ingresso libero al Mambo in via Don Minzoni 14. Scusami, la rifaccio, eh? Rifallo. Grande. Adesso venerdì la devi leggere tu. Non e so adesso se... venerdì 20 ottobre alle ore 18 la Fondazione Collegio Artistico Venturoli di Bologna, sì, ha il piacere di invitarvi all'inaugurazione della mostra New Spaces, New Entries, allestita negli spazi appena rinnovati del Centro Culturale. La mostra presenta le opere di Barbara Baroncini, Irene Fenara, Giacomo Gresleri, Simona Paladino, Davide Trabucco, che entrano a far parte della collezione del Collegio, al termine del periodo del loro trascorso nelle sue antiche sale in qualità di borsisti beneficiari di una residenza artistica. Tutto questo accade venerdì 20 alle ore 18 alla Fondazione Collegio Artistico Venturoli in via 10304 Bologna. Poi invece sabato alle ore 17 tre appuntamenti per scoprire il progetto di Carolina Cappelli che ha coinvolto la sua comunità, la comunità calderarese over 65 e appunto alla Casa della Cultura di Calderara di Reno. Anzi no, prima sul palcoscenico del Teatro Spazio Reno di Calderara verrà presentata una rimessa in scena de Il Signore delle Mosche che vedrà coinvolto il gruppo di calderaresi over 65, parte del progetto di Carolina Cappelli. A seguire, nella piazza coperta della Casa della Cultura Italo Calvino, verrà inaugurata la mostra dal titolo Post Veggenti, tentativi di sopravvivenza per catastrofi ripetute. E poi alle 19.45 avremo un talk chiamato Nessuno Spettatore. Questo sempre attorno al lavoro di Carolina Cappelli. Questa è la Casa della Cultura Italo Calvino in via Roma a Calderara di Reno, sabato dalle 17 in poi. Dicevo invece perché per esempio la Fondazione Venturoli è un collegio che è molto interessante e gli artisti che vengono esposti questa volta sono coloro che hanno vinto una residenza perché c'è stato il bando, infatti l'avevamo pubblicitato anche qui a Coxo Spaziale, che è un bando un po' particolare, nel senso che è un po' chiuso, nel senso che dovevi essere residente nella provincia di Bologna e essere anche un artista bolognese, credo, se non sbaglio, quindi e poi essere studente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, per cui in effetti il bando era abbastanza, però credo che sia stato vinto da nuovi borsisti e dunque i vecchi borsisti, che appunto sono Barbara Baroncini, Irene Fenara, Giacomo Gresleri, Simona Paladino e Davide Trabucco, se ne dovranno andare. E e volare nel mondo reale dove nessuno ti dà uno studio gratis. E volare nel mondo reale dove vengono accolti da una puntata così nostalgica di Cox Speciale. Esatto, infatti. Mentre invece la presentazione del volume Fuori dal coro, l'arte libera dalle ideologie al tempo della contestazione, di cui io non so assolutamente niente, infatti verrò a vedere questa presentazione perché sono super interessato da questa cosa. E non vedi l'ora di comprartelo, immagino. Non vedo l'ora di comprarmelo, immagini. Dicevo, no, mi interessa perché la mia domanda per te, visto che entrambi siamo artisti visivi, era: ma secondo te l'arte deve essere libera dalle ideologie del proprio tempo oppure no? Infatti proprio questo testo racconta di come a partire dal 68 ricorre in molta parte della critica la convinzione secondo cui l'arte debba essere coinvolta nell'impegno sociale e politico. Tu mi stai facendo una domanda, diciamo, una domanda difficile, soprattutto in questo momento particolarmente teso a livello politico internazionale, e anche qui in Italia ci sono, non so se, vabbè, tu non sei social, però c'è un sacco di gente che si insulta dalla mattina alla sera perché uno sta con i palestinesi, uno sta con gli israeliani e niente, poi alla fine finisce tutto in chiacchiere da bar. Ma un artista contemporaneo invece deve prendere in considerazione queste cose oppure fregarsene e andare avanti con la propria ricerca personale? E soprattutto ha a che vedere con la social engaged art di Pablo Helguera, potrebbe essere una domanda anche riferita. Sicuramente se questa domanda la facciamo a Pablo Helguera sappiamo la sua risposta. Però, anzi, fra l'altro devo andare a vedere sul suo Facebook se ha postato qualcosa a riguardo, perché essendo lui artista messicano ma residente a New York, la situazione anche a New York so che non è esattamente delle più felici, nel senso che anche lì c'è molta diatriba tra i sostenitori del popolo palestinese e quelli che naturalmente certo. Non è che sia una roba di tifo da stadio, però alla fine molto spesso finisce un po' in cacciara anche lì, pur essendo New York una città culturalmente piuttosto attenta, no? E questo perché secondo te, perché se ne è parlato, cioè se ne parla nei social, o finisce in cacciara perché probabilmente è un momento così, un momento storico anche in cui tutte le informazioni le informazioni sono notizie e non subiscono quella traduzione in narrazione, no? E che anche forse un po' all'interno della tua domanda c'è questo tipo di concetto. Affinché un artista possa fare un discorso, un procedimento artistico, non propagandistico, quindi non stiamo parlando di arte involucrata nel sociale e nel politico come per esempio un'arte di propaganda, no? Un'arte di racconto di un potere, ma stiamo parlando di un'arte intrisa di un significato sociale e politico e poi raccontata al mondo. Ecco, io ti faccio una domanda opposta: ma esiste un'arte che non ha in nessun modo un significato politico nel suo essere pubblica? Beh, la risposta veloce sicuramente secondo me è no. Nel senso che anche quando un artista fa arte che non ha nulla a che fare con quello che gli succede attorno, in realtà la sua valenza politica ce l'ha, che è quella di fregarsene della propria valenza politica, che è un paradosso, che però è un paradosso che vediamo piuttosto spesso in questo momento. Dopodiché abbiamo un SOS, un messaggino che ci è appena arrivato. SOS da Carrara, mi chiamo Massimo Gaspari, tanti punti di domanda, SOS. Cosa faccio, sta? SOS, tanti punti di domanda, cosa vuol dire? Non lo so. Stai, caro Massimo Gaspari, stai parlando con noi di Cox Spaziale per diciamo un'attinenza al discorso, scrivici di più perché mi sto preoccupando. No? Dici che ha bisogno di aiuto? Può darsi che sia una fake news, perché in effetti io in questi giorni, guardando un po' di io adesso socials. Sì, no, devo dire che sono curioso anche di vedere che cosa succede nei media, no? Perché, che ne so, magari mi faccio del male, guardo il TG1 ogni tanto e ascolto un certo tipo di informazione, dopodiché vado a leggermi magari The Israeli Times oppure Al Jazeera, che mi sembrano due bacini di informazione, esatto. Due facce di una medaglia, che è quella della guerra in Medio Oriente in questo momento. E in effetti, più guardo queste cose, più mi accorgo di quanto appunto Julian Assange abbia ragione quando dice che in realtà queste tipi di guerra sono volute da qualcuno che ci guadagna. Certo. E dunque dovremmo stare molto attenti a prendere una fazione contro l'altra, no? Proprio per il fatto che molto spesso quello che sta succedendo in realtà i media ce lo stanno facendo vedere per un proposito che è quello di prendere fazione, perché in effetti hanno bisogno di avere un pubblico, esatto, e hanno bisogno del fatto che hanno bisogno di, insomma, avere dei numeri da una parte e dall'altra, hanno bisogno che si crei una sorta di dualità tra per giustificare proposte. La guerra, perché in effetti se tu non prendi posizione, non appoggi quello, cioè per difendere la pace che cosa possiamo fare noi? E Julian Assange dice naturalmente di informarsi il più possibile e di lavorare attivamente perché fare che questa pace succeda. E dunque aiutare i palestinesi contro gli israeliani o gli israeliani contro i palestinesi sicuramente non aiuta. E quello che stiamo vedendo nei media in questi giorni è esattamente l'opposto, perché naturalmente i media sanno che più si alza il livello della conversazione, dell'attenzione, e più c'è attenzione e dunque più pubblicità si vende, più ascolti si fanno, viene nutrito tutto quanto, no? Esatto. Notizia. Però stiamo nutrendo in realtà il seme della guerra. Infatti non è un caso che Julian Assange, dopo aver pubblicato le nefandezze di quello che è successo in Afghanistan e in Iraq, è stato imprigionato con una scusa, e lui da 13 anni è di fatto in galera. Prima era in autoesilio nell'ambasciata dell'Ecuador, adesso ce l'abbiamo direttamente nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra, e molta gente sta cercando di dire che questo non va bene, perché nel momento in cui una nazione minaccia un giornalista e lo tiene in prigione senza un processo, gli altri giornalisti naturalmente fanno un po' fatica a sentirsi liberi di poter dire e raccontare tutto quello che succede. Quindi la tua domanda che poni, diciamo, questa puntata coxica con i nostri carissimi aerei di sottofondo che non passano, si sentiranno che passano così, mm-hmm, è di come un artista oggi possa raccontare non soltanto un'informazione che ci arriva in modo assolutamente parziale, ma anche eventualmente tradurla all'interno della sua operazione. Ma forse la domanda anche da porsi è come non diventare poi didascalici in un momento, cioè non fare la seconda notizia, cioè comunque c'è sempre bisogno di una sorta di traduzione in qualche modo, e quindi anche una tua posizione nei confronti della notizia che stai ascoltando, che stai assumendo. E c'era un artista che è scomparso un po' di tempo fa che si chiama Tim Rollins, NKOS. Lui diceva sempre che la cosa migliore fosse la direct action, cioè in ogni caso la presa di posizione tua individuale si può misurare nella tua azione individuale ancora di più, o comunque sempre insieme al discorso che poi vai a fare. E la sfumo così. Giorgio poi, i pomeriggi. Sicuro è il mio profilo. carta a carbone, buio come un caffè. I pomeriggi passati a pensare, a soffiare sul vento. E se non cambia si mette male, che sta arrivando l'inverno. Non torneremo mai più. Non torneremo mai più. Le nostre ombre invernali, si allungheranno sopra i marciapiedi. Tornati in onda su Cox Spaziale. Malgrado Giorgio poi dicesse che non torneremo mai più, siamo tornati per salutarvi e chiudere questa puntata di Cox Spaziale. No, però dicevo, prima di abbandonarci, volevo sentire il tuo punto di vista rispetto al tener conto di quello che succede quando fai arte. Allora, io penso che sia fondamentale tener conto di quello che succede quando fai arte, ma tantissime cose succedono, no? Nel senso che le informazioni che riceviamo, come giustamente dicevi tu, sono alcune informazioni che succedono nel mondo, ce ne sono tantissime altre, sembra una banalità in questo momento detta in due minuti alla fine di Cox, però penso che sia fondamentale tener conto del mondo, di quello che succede dentro al nostro mondo, dentro la nostra quotidianità anche, e senza tradurlo in modo didascalico, ma traducendolo in modo responsabile e quindi cercando appunto di utilizzarlo come una domanda non declinata al massimo sistema, ma come una domanda declinata alla tua azione quotidiana, cioè a cosa nella tua azione quotidiana tu fai o non fai per così, come tu rispondi in modo anche critico a questo tipo di cose. Ovviamente tu non è che puoi andare, certo sì, potresti fare milioni di opere su questi temi politici e di guerra e anche di grandi domini di potere, no? Sociopolitici, economici, e anche così facendo diciamo che prenderesti una tua voce che non mi sento di criticare o giudicare, ma esattamente come anche tutta la deriva, per esempio, di sostenibilità che c'è stata in alcune espressioni artistiche. Forse lì, se veramente vuoi cambiare qualcosa, il mondo dell'arte non è lo spazio giusto per cambiarlo. Cioè. Certo, come ci ha dimostrato Joseph Beuys in passato, esatto. Però io credo che comunque una certa criticità e una certa una certa coerenza nel lavoro artistico ci debba essere e che tenga in considerazione quello che ci circonda. Obbligatoriamente. Poi naturalmente c'è da dire che dipende anche da chi pensi possa essere il tuo fruitore, ovvero vogliamo parlare, cioè noi artisti vogliamo parlare, ovvio che sarebbe bello parlare con tutti, però stiamo usando un linguaggio così specifico che tutti non lo capiscono, perché certo, non hanno l'educazione che noi vorremmo che loro avessero, oppure non hanno semplicemente anche i canali o la possibilità di andare a fruire, sì, diciamo che tra un cinema e una mostra la gente va soprattutto al cinema. Certo, anche perché quando entri in una mostra così, diciamo che non sei esattamente benvenuto con qualcuno. Adesso le cose stanno un po' cambiando, però insomma diciamo che non ci si sente esattamente accolti. Presi per mano. Sì, esatto, presi per mano, o perlomeno poi detto questo, la funzione dell'arte è di porci delle domande, di fare che noi ci poniamo delle domande, noi fruitori, e dunque le nostre domande rimangono senza risposte quando vediamo una mostra che ci crea delle domande, il che è positivo. Però tendenzialmente noi, nel momento in cui vogliamo essere intrattenuti dall'entertainment, preferiamo delle risposte, no? Certo. Come si chiama? Il good ending, no? L'happy ending, esatto. Certo. Preferiamo un happy ending. Preferisci credere che il mondo sia fantastico, sia favoloso, e che esatto, comunque il tuo momento di distrazione sia la cosa migliore. Mentre invece l'arte tendenzialmente ci ricorda il fatto che non ci sia questo happy ending né in noi né nel mondo. E dunque così la depressione aumenta. No, ma è giustissimo. Capisco quello che proponi tu come punto di vista, e la criticità è fondamentale in ogni tipo di sguardo, anche proprio perché in teoria l'artista dovrebbe lavorare sullo sguardo che abbiamo visto. Esatto, ma infatti non è un caso che i maggiori artisti di successo in realtà sono molto più intrattenitori degli artisti che magari invece sono, soprattutto in questo periodo di decadenza politica, no? Cioè abbiamo il fatto che se io faccio delle cose un po' spettacolari e un po' interessanti su TikTok, capito, ho 300.000 follower perché sto facendo intrattenimento, ma come messaggio artistico in realtà sto dando molto poco a quello che è la ricerca artistica. Insomma, che stai aprendo un tema veramente interessante da cui dedicare una puntata ad hoc, che è anche proprio quella dell'entertainment, no? Dell'arte fruita come entertainment, esatto, o come critica, come spunto critico. Però sì, invitiamo tutti, anche non soltanto gli artisti, a rendersi conto di quello che succede nel mondo e a declinarlo con una domanda in più nei confronti di quello che facciamo ogni giorno. Beh, i nostri ascoltatori di Radio Città Fujiko sappiamo che comunque hanno una discreta criticità e sanno, insomma, sanno chi seguire, perché insomma siamo anche una delle poche voci locali un po' fuori dal coro, per cui così. Per cui ci salutiamo con le parole del direttore. Come al solito. Io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Mia Daschio Suppiei. E il nostro direttore che ci dice così. A livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Don't be a dick. I'm out here dodging stones and sticks. Building a house brick by brick. Everybody points and stares at my female brain. My female brain. There's no need to be rude. Your life's an all-inclusive cruise. I'm out here getting stiffed and screwed. With both my hands in restraints, while everybody points and stares at my female brain. My female brain. You're gonna wanna sit. I didn't prepare for this. Are you Mrs. or Miss? My name is Margaret. Are you against or with? I'm first, second, third, fourth, fifth. the light. I'll never give up the fight. I'm suffering in pain. Oh, using my gorgeous female brain. My female.